Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Vienna, aprile 1902. Sulle scale del palazzo della secessione della Friedrichstrasse sta avanzando un gruppo di uomini distinti e signore in abiti lunghi e boa di piume. L'appuntamento è immancabile. Oggi si inaugura una mostra e questo palazzo è il centro dell'arte d'avanguardia nella capitale. I suoi vernissage sono un rito nell'alta società. Il pubblico ancora non sa cosa aspettarsi, ma già all'entrata resta colpito. Al centro della sala principale c'è un monumento che raffigura un uomo con ai piedi un'aquila. È seduto su uno scranno enorme in marmo e a torso nudo e allo sguardo grave, assorto. Mentre gli occhi sono catturati dal monumento, partono le note di una sinfonia. Come non riconoscerla? La famosa nona. Friedrich Schiller le ha dato le parole e ora è un inno alla gioia. A interpretarlo è l'orchestra diretta da Gustav Mahler e la sua moglie Alma a descriverci la scena. Al centro si presentava per la prima volta il monumento che Max Klinger aveva dedicato a Beethoven e poi si andava al resto della mostra. In quell'altra sala tutte le pareti erano piene di allegorie affrescate che si riferivano al grande musicista. Quando gli spettatori sciamano verso la sala a fianco, sono sopraffatti. Incombe su di loro un fregio lungo più di 30 metri e denso di figure altissime che giungono al soffitto, disposte come in un racconto. Sul principio compare un ammasso spaventoso di mostri, orchi, gorgoni, donne orrende e nude con un cavaliere che avanza. Poi, mano a mano che supera questa scena tormentosa e compie il suo cammino, lo accoglie un coro d'angeli. Infine si vede il cavaliere senza più armatura, nudo, che abbraccia una fanciulla nuda anche lei. Qualcuno, facendo caso alle note che ancora risuonano nell'aria, con Mahler che dirige, sente affiorare nel ricordo le parole di Friedrich Nietzsche, scritte 30 anni prima in un suo libro, La nascita della tragedia. Si trasformi l'inno alla gioia di Beethoven in un quadro e non si rimanga indietro con l'immaginazione. In quel palazzo dove scultura, musica e pittura sembrano fondersi in una sola opera totale, c'è chi si chiede se per caso quella donna abbia un significato, forse un simbolo, un inno all'arte. Ma più che altro gli spettatori sono stupefatti, quei nudi danno il via ai commenti più animati. C'è chi li ammira e chi ne è sdegnato. Chi ha creato questo racconto stupefacente è un uomo più che noto nella Vienna di questo inizio secolo. Tra scandali e applausi, il suo nome risuona sempre ovunque. Gustav Klimt. Gustav Klimt. Chissà cosa dice Gustav Klimt quel giorno alla mostra, cosa risponde mentre è circondato dai complimenti calorosi e dalle critiche più aspre. Difficile conoscere il pensiero di un uomo che non lascia dietro a sé scritti, testimonianze sue. In effetti, non ama le parole, non gli dà peso. Si esprime benissimo in un altro modo, la pittura. Chi vuole sapere di più su di me, cioè sull'artista, l'unico che vale la pena di conoscere, osservi attentamente i miei dipinti per rintracciarvi chi sono e cosa voglio. Klimt, nelle sue tele, sa narrarsi senza mai farsi l'autoritratto. Racconta della strada che ha percorso, delle sue scelte controcorrente e del suo mondo magico, dorato. Lo stesso in cui si culla la sua Vienna, mentre sullo sfondo i presagi di una possibile rovina sono ancora ombre, flebili e fugaci. Il padre esulta alla nascita di Gustav. Un figlio maschio appena cresce gli darà una mano per tirare avanti. Per lui che è un immigrato la vita è faticosa e i soldi sempre troppo pochi malgrado il suo lavoro di artigiano. Ma Gustav va oltre, molto oltre. E già da piccolo mostra una vena artistica eccezionale per cui suo padre inizia a fantasticare. Potrebbe diventare un insegnante di pittura. Per questo iscrive il ragazzino alla scuola di arti e mestieri, ma quella che doveva essere una porta aperta verso il futuro viene letteralmente sfondata dal talento di Klimt. Se ne accorge il professore Ferdinand Laufberger, che gli procura degli incarichi come decoratore. Gustav si abitua a girare per i cantieri dei palazzi che sono in costruzione un po' ovunque a Vienna e gli basta poco perché sorga in lui un'idea un po' azzardata ma che potrebbe funzionare. È una scommessa, ma anche i compagni ci stanno pensando già da un po'. Cosa ne dite? Mettiamoci insieme, costruiamo una squadra. Siamo veloci, economici, molto bravi e non facciamo i difficili come certi artisti famosi che ci sono in giro. Ci basta andare dagli architetti, in città è tutto un cantiere, tra palazzi e teatri da decorare il lavoro lo troviamo. Il gruppo nasce e si dà anche un nome, la Compagnia degli Artisti. Gustav ci si trova più che bene, lavora con suo fratello Ernst, che ha fatto la sua stessa scuola, e il suo migliore amico Franz Matsch. Abitano assieme in un appartamento, solo loro tre, e il lavoro non manca, anzi, gli incarichi si fanno sempre più prestigiosi e con il tempo Klimt si costruisce una gran fama per la sua bravura. Ormai ha 30 anni e crede di aver raggiunto una dimensione stabile, è un decoratore dalla mano eccezionale e gli piace vivere così, tra amici. Ma nell'arco di un tempo brevissimo, tutto precipita. La morte spazza via dalla sua vita nello stesso anno suo padre e suo fratello Ernst. Il mondo crolla in mille pezzi, Klimt a malapena tira avanti e resta del tutto solo il giorno in cui Franz Matsch arriva con una notizia. Gustav, lo sai che sono fidanzato con Teresa Kattus, la figlia di quel produttore famoso di spumante. Ecco lei, Gustav, mi sono deciso e ho chiesto la sua mano. Da quando faccio ritratti per gli amici della sua famiglia, tutta gente dell'alta società, le cose mi vanno molto bene. È per questo che mi sono deciso. Voglio sposarla. Per cui mi spiace, ma me ne devo andare. Proprio mentre Klimt sta uscendo dal suo periodo nero e dalla depressione, entra nella sua vita un personaggio nuovo che, come lui, ha sempre vissuto di pittura. Karl Mull. Alla sua stessa età e viene dall'Accademia. È stato anni a studiare col professor Grimpekerl, il più illustre difensore dello stile classico. Ora Mull non sente più affinità con quel mondo e quando conosce Klimt ha una folgorazione. Gli basta un'occhiata a un paio dei suoi lavori più recenti per ritrovarvi i segni di una genialità latente che non ha ancora avuto modo di esplodere. È come se per farlo stesse cercando di liberarsi dai linguaggi del passato. Mull capisce che in Gustav Klimt non c'è solo un bisogno estremo di ricominciare la sua vita, ma anche di creare una pittura nuova e quindi potrebbe diventare lui il traino di tanti altri che con l'Accademia non vengono più a patti. Mio caro Klimt, ci sono pittori e architetti prontissimi a tagliare i ponti con l'arte più convenzionale e c'è bisogno di farla convergere, questa voglia di cambiare, ma in modo forte, con voce chiara. Siamo dissidenti? E allora diciamolo. Ma assieme, in gruppo, un gruppo con una sua organizzazione, e di quella potrei occuparmi io. Tu invece potresti essere il direttore artistico. È il 1897, 21 giugno, e una ventina di uomini si ritrova ufficialmente in assemblea. Tra loro ci sono l'architetto Josef Hoffmann, Karl Mull e soprattutto Gustav Klimt. È a lui che questi uomini affidano il ruolo di presidente e guida per un'impresa epocale, rivoluzionaria, portare finalmente l'arte austriaca nella modernità, formando un'avanguardia. È necessario un luogo adatto per presentare le nuove opere. Così il gruppo decide di fare erigere un palazzo da utilizzare come galleria. Fin dalla prima esposizione, il pubblico più sensibile alle novità si dimostra entusiasta e fra loro c'è lo scrittore Hermann Bahr. Non si è mai visto niente di simile a questa esposizione. Nemmeno un quadro che si possa definire brutto. Anzi, questa mostra concentra in sé tutta l'arte moderna qui a Vienna e testimonia che in Austria abbiamo artisti che non hanno nulla da invidiare ai migliori d'Europa. Klimt nei suoi soggetti ha una vera predilezione per il corpo femminile. Alla sua vecchia scuola, per imparare a disegnare il corpo umano, si esercitava con davanti le modelle e quelle erano ragazze vere, solo poi le faceva diventare statue. Ora vuole che tutto cambi e come lo lascia intendere in un'illustrazione che disegna sul Versacrum, Primavera Sacra, la rivista dei secessionisti. Sulla copertina raffigura una ragazza nuda che è ancora nella posa di una statua e ha uno specchio in mano, ma è vera, bella, fatta di carne e non di marmo. Sotto ai suoi piedi pone la scritta Nuda Veritas, nuda verità. Vienna non vive in realtà solo di entusiasmo per le grandi rivoluzioni che sono in corso in ogni campo. Accanto ai sostenitori del nuovo c'è un gran numero di conservatori che nel superamento del passato, nella istanza di autoaffermazione, vede una minaccia e quindi non si unisce al coro degli applausi verso la nuova arte, anche di Klimt. Intanto però nei salotti si discute sui progressi della scienza e immancabilmente la conversazione va su un argomento molto interessante. Quale lo dice Christopher Riopel, curatore alla National Gallery di Londra. Vienna, alla fine dell'Ottocento, era un centro per lo studio del sesso e della sessualità. Non solo Freud, ma molti dei suoi contemporanei studiavano la relazione tra sessualità e società, la preoccupazione che il sesso potesse giocare un ruolo nella decadenza sociale. Questi erano gli argomenti che si respiravano. I misteri della sessualità sono nei pensieri un po' ovunque a Vienna, ma è il perbenismo che non permette mai di smascherarli pienamente. Klimt non si unisce alle conversazioni da salotto e non si immerge nei libri di Freud. Il suo interesse per quel mistero, che è il corpo femminile, lo coltiva in un mondo che è solo suo. Klimt nel tempo libero incontra volentieri soprattutto Karl Moll e Gustav Mahler. I due sono legati da una curiosa parentela. Chi lo direbbe che i due coetanei sono rispettivamente suocero e genero, ed è Alma, figliastra di Moll e ora moglie del grande musicista Mahler, il ponte di collegamento. Alma è bellissima. Anche Klimt ricorda bene di quando se n'è invaghito, ma ora è acqua passata. Vede gli amici sempre volentieri, scambiano due parole e lui approfitta anche per chiedere consigli. Ho sotto mano quel lavoro per l'università, vi ricordate la decorazione dell'Aula Magna? Vogliono che rappresenti la filosofia, la medicina e la giurisprudenza in una gran celebrazione. I professori sono stati chiari. Temo si aspettino una proposta molto classica, ancora statue, credo, divinità. Ma è così scontato, già visto. No, per me c'è spazio per cambiare strada. Voi cosa ne pensate? I suoi lavori nascono così, in un processo creativo che si compie davanti a una tazzina di caffè tra amici. Poi Klimt torna nel suo studio e come trascorre le giornate lo sa una sua contemporanea, la critica d'arte Berta Zuckerland. Klimt disegnava molte ore al giorno, come un virtuoso fa al pianoforte con le scale. Ma affinché il virtuosismo non prevaricasse l'intima e spontanea comprensione dell'essenziale, incominciò a disegnare alternativamente con la mano destra e con la mano sinistra. Nella sua anticamera attendevano sempre numerose modelle che dovevano essere costantemente e vicendevolmente a sua disposizione per permettergli di disegnare i suoi studi destinati alle infinite variazioni sul tema donna. Klimt ritrae in ogni posa languida le sue modelle ed è un maestro quando cattura col disegno l'abbandonarsi dei loro corpi a un'esperienza erotica. Lui stesso alterna sessioni di pittura e abbracci appassionati con le sue ragazze e l'emozione più intima si libera poi nelle sue tele e anima i corpi facendoli vibrare. La sua pittura è affascinante e resta intensa anche quando la donna che ha davanti è vestita da capo a piedi. Lui la vede nuda sempre, e per quanto ne dipinga solo il viso, sono il rossore delle gote, la bocca schiusa, gli occhi a far intendere le vibrazioni della carne sotto le vesti bellissime che si vedono nel quadro. Ed è ancora Karl Moll a notare dove punta tutto l'interesse del suo amico e quali sono le sue capacità così singolari, straordinarie. Gustav, ma ti rendi conto? Sei unico. Guarda queste figure. Si sente cosa provi tu per loro e loro cosa sentono. E come te, nessuno riesce a dipingere le donne qui a Vienna. È una cosa nuova. E io lo so a chi potrebbe interessare. Puoi diventare famoso. Moll ha già un'idea. Pensa a tutte le famiglie benestanti che conosce, quelle dalla mentalità più aperta e interessate all'arte d'avanguardia, e immagina le loro case, i saloni. Sulle pareti in bella mostra gli pare già di vedere un ritratto femminile firmato Gustav Klimt, sfoggiato come un gioiello. sa già come tradurre quest'immagine in realtà e inizia a sfruttare tutte le sue conoscenze fra i borghesi altolocati. Presenta Klimt come il nuovo genio della ritrattistica, impareggiabile nell'immortalare il fascino delle grandame e così in breve tempo per le signore della buona società. Posare dal maestro nel suo atelier diventa un must. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati siamo nella Vienna a cavallo fra due secoli, un periodo magico e pieno di cambiamenti. Gustav Klimt, un pittore a lungo apprezzato per i suoi lavori di stampo classico, nel 1897 ha impresso una svolta alla sua arte. E questo dopo una parentesi drammatica della sua vita, la morte di suo padre e suo fratello. Con l'aiuto di un nuovo amico, Karl Moll, ha dato voce al suo bisogno di ricominciare, aggregato attorno a sé nuovi compagni e dato vita a un'arte d'avanguardia, la secessione viennese. Ma la rivoluzione vera per Klimt è che ora tutta la sua pittura è l'espressione di quello che ha dentro di sé, una passione intensa, assoluta per il corpo vivo e vero delle donne. La donna seducente e a tratti fiabesca di Gustav Klimt sa trasformarsi in molti modi. Diventa ninfa, dea, serpente d'acqua. E anche quando immagina una donna che sa uccidere, la copre di gioielli nei panni di Judith, l'eroina che ha mozzato il capo a un tiranno nei racconti della Bibbia. La rende così bella, altera e viva, da far pensare che sia proprio lui il primo ad arrendersi al suo fascino e diventarne vittima. Judith è il volto di Adele Blockbauer, una dama dell'alta società. Intanto Klimt ha sempre attorno a sé le sue modelle e un giorno si accorge che da un po' non vede Erma, una splendida ragazza dai capelli lunghi e rossi, quelli che gli piacciono di più. Quando chiede in giro, scopre che Erma non viene perché si vergogna. È incinta e con il pancione pensa di non essere più adatta per i quadri. Allora Klimt la fa cercare, mandandole un messaggio pieno di affetto. Erma, ti aspetto, sarai bellissima come sempre. E so già come dipingerti. Per me così ti chiamerei Speranza. La città seguita a cullarsi nel suo sogno di splendore. E una tappa immancabile sono le ore trascorse nei caffè, una vera istituzione per la buona società, ma anche per letterati e artisti. Tra seggiole tonet e tavolini in marmo, ognuno si sente come in un salotto. E il tempo passa a conversare, mentre in sottofondo un pianista esegue qualche famosa melodia. Klimt si gode l'atmosfera rilassante del Caffè Museum e vede avvicinarsi al suo tavolino un ragazzo giovanissimo e magro come un chiodo. Dopo l'accenno di un saluto molto impacciato, comincia ad armeggiare con le sue dita rigide e apre una cartellina che ha con sé. Per quanto sia grande il suo imbarazzo, si vede che ci tiene molto a quanto si è portato dietro degli schizzi che non vede l'ora di mostrare a Klimt. I fogli scivolano sul tavolino. Klimt ha un attimo di esitazione. Non parla, guarda. Dopo 30 anni di pittura sa cogliere qualcosa di valore. Il giovane rompe il silenzio per l'emozione non si è ancora presentato. Tende la mano e pronuncia il suo nome. Egon Schiele. Egon Schiele. Al Caffè Museum, Egon Schiele è ancora davanti al pittore più famoso di Vienna ed è in attesa di un verdetto sui suoi schizzi. Come suo solito, Klimt risponde in due parole. Attento, amico mio, quando il talento è troppo, può giocare strani scherzi. Nel momento stesso in cui le parole fuoriescono dalla sua bocca, Gustav Klimt capisce che sta pensando a se stesso. Lo sa sulla sua pelle che il talento può procurare tante gioie quante critiche e amarezze. La sconfitta più aspra per lui si lega all'incarico dell'università. Le sue proposte sono state contrastate per anni e la questione è finita persino in Parlamento finché si è ritirato. Da parte sua il giovane accoglie quelle parole come fosse musica perché a pronunciarle è l'uomo che in cuor suo ha già scelto come la guida a cui ispirarsi senza riserve. We'll be right back. Nel 1907 Egon Schiele ha 17 anni, è a Vienna da poco e frequenta l'Accademia di Belle Arti. In aula vorrebbe dare sfogo al suo talento più spontaneo, ma troppo spesso il suo entusiasmo si infrange contro uno scoglio durissimo, il professor Guy Perkerl, che non riesce a tollerare le intemperanze sue e del suo amico Richard Gasterl. Questi due ribelli me li ha mandati in classe il diavolo in persona. Guy Perkerl è troppo conservatore. Egon ne ha la conferma quando ha la malagurata idea di domandargli dove può vedere le opere di Gustav Klimt. Lo conosce di fama, ma ha un motivo personale per la sua curiosità. Una frase pronunciata da Karl Strauch, suo maestro di pittura ai tempi del liceo. Bel lavoro, signor Schiele. Il vostro tratto ricorda quello di Gustav Klimt. Anche se suona un complimento, per lui non è chiaro cosa volesse dire il professore. Viene da una cittadina a pochi chilometri da Vienna, dove non esistono le opere di Klimt. Ma ora può vederle e chiede a Guy Perkerl dove le può trovare. Se volete conoscere la pittura di Gustav Klimt, vi suggerisco di ammirare le sue decorazioni al Kunsthistorisches Museum. Ma intendete bene, anche se si fa un bel parlare di quanto espone al Palazzo della Secessione, non azzardatevi a varcare quella soglia e spero di essere stato chiaro. Così Egon intuisce di avere non una, ma due mete. Non perde tempo e vola come prima cosa al museo, dove gli basta alzare la testa verso l'alto e a ridosso delle arcate trova affrescate statue greche e figure egizie, dipinte in modo eccezionale. Poi la tentazione si fa troppo forte. Punta in direzione della Friedrichstrasse, dove c'è il Palazzo della Secessione. La costruzione bianca e squadrata con in cima una cupola d'oro lo attira come un faro. Ma quando si avvicina, è la scritta sopra la porta principale a catturarlo. È una frase che per il suo carattere suona decisamente bene. Ad ogni tempo la sua arte, all'arte la sua libertà. Mentre fissa le pareti dove sono appesi i quadri di Klimt, vive come una rivelazione. Si perde tra le linee sinuose di una pittura elegantissima. E lui mai avrebbe immaginato che in una tela il corpo femminile potesse venir fuori così vivo. È poco più che un adolescente. E in segreto coltiva proprio la passione per i nudi. Passa le ore a disegnare le ragazze che popolano la sua fantasia. Quindi decide. Gustav Klimt da quell'istante è il suo riferimento. Lo cerca per tutta la città e quando finalmente lo conosce al Café Museum, Klimt non lo delude, anzi, lo esorta a non mollare, anche quando non dovesse raccogliere consensi. E questo lo sottolinea con una frase di Schiller, che ha messo in fondo a un quadro quando ha riportato sulla tela una sua vecchia illustrazione, Nuda Veritas, la nuda verità. Se non puoi piacere a molti con le tue azioni e la tua arte, piaci a pochi. Piacere a tutti è male. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Vienna nel 1907 e il giovanissimo Egon Schiele ha da poco incontrato Gustav Klimt al Café Museum. In realtà lo aveva già conosciuto attraverso le sue opere al Palazzo della Secessione e per lui è stata una rivelazione. E anche lui, un artista in erba, studia all'Accademia di Belle Arti di Vienna, ma non viene a patti volentieri con le regole. Ha un carattere ribelle e un talento eccezionale, che Klimt ha riconosciuto subito nei suoi schizzi. Tra i due è già scattata una comprensione istintiva. Egon ha percepito subito un'affinità tra la propria anima e quella dell'artista più famoso di Vienna. E ora, mentre sta per entrare nell'atelier di Klimt, gli pare di varcare un mondo a sé che gli aprirà le porte della sua nuova vita. Era il maggio del 1907, quando la prima volta sono andato a trovare Klimt. Nel suo studio si entrava passando per un giardino, si attraversava una porta a vetri e già nell'anticamera erano distese tele e altri materiali. Negli altri tre locali i disegni sul pavimento erano a centinaia. Klimt era robusto, forte, abbronzato e come faceva sempre, indossava una tunica blu, ampia, che gli arrivava fino ai talloni. Riceveva così, anche quando bussavano alla porta gli ospiti o le modelle. È passato solo poco tempo da quel pomeriggio al caffè e Schiele raccoglie l'invito di Gustav Klimt a visitarlo nel suo atelier. Non si vedono più molto nello stesso anno, ma già quelle brevi occasioni sono sufficienti per radicare in lui la spinta a entrare con tutto se stesso nello spirito dell'arte d'avanguardia. Frequenta regolarmente le mostre dei secessionisti, si cala alla lettera nei panni del loro presidente, si veste come lui indossando un lungo caffetano e sempre come Klimt colleziona raffinate stampe cinesi. Si esalta, sentendo sua la personalità del maestro, ma dentro non riesce a cancellare un dolore che gli viene dal passato. Solo 2 anni prima, la sifilide gli ha portato via suo padre, dopo avergli tolto la ragione. Non so se vi sia qualcun altro al mondo che ricordi il mio nobile padre con tanta tristezza. Non so chi possa essere capace di comprendere perché io visiti i luoghi che lui usava frequentare e possa sentire il dolore. Aegon deve a suo zio Leopold tutto l'aiuto di cui ha bisogno per vivere e studiare a Vienna. Ma intanto anche Klimt lo aiuta. Acquista i suoi disegni e gli procura le modelle, ma non solo, lo presenta ad alcuni ricchi mecenate. Nel frattempo in accademia vive in un'atmosfera sempre più carica di tensione. I miei rozzi insegnanti sono sempre dei nemici. Non mi capiscono né loro né gli altri. Chi sembra capire molto bene il suo desiderio di trovare per la sua arte una via del tutto personale è proprio Gustav Klimt, che nel 1909 lo invita a prender parte a una mostra, convinto che per lui sia un'occasione da non perdere. Aegon, devi esserci anche tu, è una mostra collettiva. Porta qualcuno dei tuoi lavori. Sarà importante, non espone solo l'avanguardia austriaca. Ci sono anche Edvard Munch, Henri Matisse e poi saranno esposte opere di Paul Gauguin e Vincent van Gogh. A quella mostra, Schiele capisce con quanta forza il nuovo è penetrato nella pittura in tutta Europa e si esprime in autentici capolavori. Resta ammirato soprattutto da Van Gogh, ma ancor di più la sua emozione è quella di vedere i propri quadri appesi accanto a quelle grandi opere. Capisce in quel momento cosa ha fatto Gustav Klimt per lui, gli ha offerto una consacrazione. E questo mentre ha solo 19 anni e la sua arte è quella di un eterno bambino che guarda con disincanto la realtà. Presto alcuni riconobbero la mimica di chi sa guardare dentro e allora non fecero più domande. È ancora il 1909 e Schiele crea un nuovo gruppo con gli ex compagni di corso. È furibondo con le autorità dell'Accademia che lo hanno espulso a causa di una lettera da lui scritta nella quale reclamava più libertà per gli studenti e da ora il principio di dare alla sua anima tutto lo spazio di cui ha bisogno si radica in lui sempre più forte. L'arte rimane sempre la stessa. Arte. Perciò non esiste un'arte nuova. Esistono artisti nuovi. L'artista nuovo è e deve essere assolutamente se stesso. Deve essere creatore. Deve saper costruire da solo il fondamento, direttamente, senza ricorrere al passato e alla tradizione. Allora è un artista nuovo. L'artista mostra un'epoca. La sua fama si diffonde in fretta e presto davanti a lui scorrono i più grandi esponenti della cultura per essere ritratti. Ma intanto dipinge anche un'enorme quantità di nudi e assieme ai corpi femminili rappresenta il proprio innumerevoli volte. Guarda se stesso nello specchio mentre si ritrae. Le linee sono rigide, spezzate, ma la sua mano insiste, calca come in uno spasmo e dentro sé cerca di dominare l'ansia. Non risparmia alcun dettaglio dell'anatomia, anche la più intima. E i corpi hanno pose esplicite, così tanto che quando espone le sue opere viene accusato di oscenità. Finisce dietro le sbarre e ha l'umiliazione di vedere uno dei suoi disegni bruciato in pubblico, un'esperienza che lo segna nel profondo. Mettere in ceppi l'artista è un crimine, è uccidere la vita in germe. È distrutto dall'esperienza della prigionia, non sa se potrà rialzarsi, ha un marchio infame su di sé. Ma è Klimt a infondergli fiducia ancora una volta e gli procura un nuovo lavoro, nuove commissioni. Al giovane pittore sembra di intravedere il barlume di una nuova alba. Forse può tornare alla ribalta e la speranza di rinascere si fa più forte quando conosce Edith, una bellissima ragazza che posa solo per lui. Ma intanto gli dice che lo ama e vuole diventare non solo la sua musa, ma la donna della sua vita. Schiele ha in mano un foglio che contiene solo 2 righe e i suoi occhi sono una condanna a morte. Lo chiamano alle armi, l'Austria è in guerra. Porta al dito la fede nuziale solo da 2 settimane. ma quella lettera gli dice che ora deve andare e lascia sua moglie tra le lacrime. Parte, ma quando un commilitone corre da lui con una notizia che ha dell'incredibile, sente il suo cuore nuovamente aprirsi. È ritrasferito nella capitale. Al suo arrivo lo accoglie una città caduta dentro a un baratro e fino a che punto lo dice Hermann Bahr, la voce più entusiasta quando fioriva il modernismo e Vienna era dorata. Mai fu epoca più sconvolta dalla disperazione, dall'orrore della morte. Mai l'uomo è stato più piccolo, mai è stato più inquieto, mai la gioia è stata più assente e la libertà più morta. Ed ecco urlare la disperazione. L'uomo chiede urlando la sua anima. Un solo grido d'angoscia sale dal nostro tempo. È un giorno freddo di febbraio, quello in cui Schiele è davanti a un letto d'ospedale, e lì, disteso innanzi a lui, c'è Klimt. Colto da un ictus e poi sfinito dall'influenza che in tutta Europa sta mietendo vittime, il suo corpo ha cessato di combattere. Egon ha la matita e i fogli in mano e tratteggia furiosamente, ritrae il suo amico mentre se ne va. La morte non lo ferma e disegnare per lui vuol dire non smettere di amare l'uomo che è stato il primo e il più grande amico suo e della sua arte. Gustav Klimt, un artista di incredibile perfezione, un uomo di rara profondità, la sua opera un santuario. Solo pochi mesi dopo è in un'altra stanza a piangere sul corpo ormai spento di sua moglie, che se n'è andata portando in sé un bambino. Schiele non ha più nulla, nessuno, bastano pochi giorni e se ne va anche lui. A 28 anni lascia dietro di sé quadri e disegni che sono il frutto di una svolta, sbocciata in lui quando ha trovato Klimt e la sua arte emozionante, che parlava in un linguaggio nuovo e libero. Quei quadri gli hanno indicato la direzione e regalato la sua storia. E quelle suggestioni anche noi le possiamo ritrovare a Venezia, al Museo Correr, in una mostra dedicata a Klimt e all'avventura della secessione. This is our last goodbye.